L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come ogni sabato con il nostro appuntamento che cerca di raccontarvi l'Europa anche con altre voci, altri punti di vista. Quella che è l'attualità politica ed economica europea viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di raccontarvi anche altre storie. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Euronet Plus R24 è invece la coordinata per trovarsi sia su Twitter sia su Facebook, oppure Federico Taddia, il mio account personale, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Si parla tanto di Europa, si parla tanto di viaggiare, si parla tanto di mobilità. Tante volte abbiamo raccontato quella che è la generazione Erasmus come colonna portante di questa nuova Europa. E oggi partiamo proprio da lì, da chi vuole muoversi per studiare e cerca di farlo magari anche con le proprie idee. Tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me carry this load. C'è l'Erasmus che ti permette di studiare 6 mesi, 1 anno all'estero. C'è Erasmus Mundus che ti permette magari di fare un dottorato, di fare un master. E se invece sei uno studente d'eccellenza, se invece già i tuoi primi anni, i tuoi primi passi all'interno dell'università li vuoi fare all'estero, li vuoi fare all'interno di questa Europa, di questo grande palco che è soprattutto una opportunità, come puoi fare? Quali sono gli strumenti? Questo se l'è chiesto Simone Bertaiola, sta studiando ingegneria, ha fatto il primo anno al Politecnico, poi ha vinto una prestigiosa borsa di studio per andare a Londra, ma lì ha capito che non c'erano progetti che potevano sostenere il suo sogno e quindi si è chiesto il perché, quindi è partito un ragionamento, è partita una domanda ed è partita anche un'iniziativa appunto per tentare di trovare un aiuto al suo portafoglio. Diamo il benvenuto a Simone Bertaiola che è qua con noi. Ciao Simone. Ciao, buongiorno. Attenzione, ti sentiamo malissimo, aspetta, pronto, ci sei? Pronto, sì. Ecco, sei tutto gracchiante, aspetta che ti richiamiamo al volo, metti giù, questo è anche il bello della diretta. Intanto vi introduco ancora Simone, 20 anni di Moncalieri in provincia di Torino, come vi ho anticipato, si è trovato in questa situazione di voler andare a studiare all'estero, ha lanciato un'iniziativa personale di crowdfunding, ma soprattutto ha iniziato a rompere le scatole, ha iniziato a scrivere a quotidiani, ha iniziato a contattare le varie redazioni, ha scritto anche noi all'Altra Europa, @radio24.it per dirci: se volete vi racconto la mia storia è semplice, di un giovane che vuole respirare l'Europa. Simone, ti abbiamo ripreso, sei lì? Sì, buongiorno. Ecco, perfetto, adesso sei meno gracchiante. Cosa rappresenta per te l'Europa oggi? Ma in questo momento è un'opportunità, diciamo, perché penso che sia un sistema importante che io voglio conoscere, avendo avuto questa opportunità di essere stato ammesso in questa università inglese che si chiama Imperial College, che per quello che voglio studiare io, ovvero l'ingegneria, è in questo momento un'eccellenza. E allora, come ci hai detto tu, ho fatto di tutto, insomma, per provare a vivere questa possibilità. Racconta pure come è nata l'idea del crowdfunding. Praticamente sono stato ammesso in questa università, ma non potendo di fatto permettermi di cogliere l'occasione, ho iniziato a lavorare. Mi sono iscritto al Politecnico, ho lavorato, ho messo da parte anche una bella cifra che però non era abbastanza. Allora ho detto, ma visto che ce l'ho quasi fatta, perché non chiedere aiuto anche a chi mi conosce, a chi mi stima, chi mi vuole anche semplicemente bene e vuole darmi questa possibilità. Allora ho lanciato questa raccolta fondi su Capital, che è un portale di crowdfunding, e niente, con una cifra che è quella di una borsa di studio media, ho cercato di dirle ai miei amici se volevano aiutarmi, se volevano partecipare a questa iniziativa, e di fatto 50 persone mi hanno detto che il mio progetto era giusto e che il mio progetto andava inseguito e che erano con me. È stato appunto bello il fatto che mi abbiano detto di continuare in questo progetto. Certo, Startup My Huni, questo era il nickname che hai usato sulla piattaforma di crowdfunding, così come asterisco anche di costume, in cambio dei 5 euro garantivi un video selfie di ringraziamento su Facebook, per 10 euro un'iscrizione a una Simo newsletter dove raccontavi in questa mail quella che era la tua quotidianità, con 20 euro una cena di ringraziamento homemade, sei bravo a cucinare? Ok, con 40 euro in più un regalo a sorpresa, questo insomma è il tuo ringraziamento, ma al di là dell'iniziativa bella, creativa, e che ti ha portato anche, credo, al di là dei soldi, anche l'incoraggiamento, il fatto di non sentirsi soli in questa avventura, hai bussato anche alle porte dell'Europa, nel senso hai cercato se esistevano borse di studio, se esistevano possibilità utili per il tuo progetto? Ovviamente ho cercato, poi quello che appunto molti forse non sanno è che per andare in Inghilterra le tasse costano moltissimo, molto più che qua, costano quasi 10.000 euro l'anno, e l'Inghilterra come sistema paese, università, offre per tutti gli studenti europei un prestito apposta per gli studenti, e quindi io appunto senza questo prestito non potrei andare, perché dovrei pagare 10.000 euro l'anno solo di tasse, più il costo della vita. Quindi già questa è un'opportunità che l'Inghilterra come paese mi ha offerto, e poi ho cercato appunto un borsa di studio per il costo della vita, che però di fatto non ho trovato, perché per questo tipo di mobilità, ovvero per le prime lauree, non esiste. Cioè, esiste per l'Erasmus, come hai detto tu, esiste per i dottorati, ma per le prime lauree, cioè per formare, per far circolare i giovani studenti, talenti e menti in generale, già a 20 anni, 19 anni, di fatto non ce ne sono. Nella mail che ci hai scritto ho sottolineato alcuni passaggi. Bisogna sapere gestire una mobilità internazionale interna all'Europa che permetta una sorta di osmosi di conoscenze e competenze, così che ogni paese possa usufruire di una futura classe dirigente che si è formata in Europa. È di questo che ha bisogno oggi, secondo te, l'Europa, di una generazione che la possa vivere, che la possa respirare, che la possa abbracciare? Secondo me assolutamente sì, e questo è secondo me particolarmente vero per l'Italia, perché abbiamo questa concezione un po' retro del i nostri studenti ce li formiamo noi, perché ci spendiamo i soldi noi e perché sono solo nostri, ma di fatto quello che io vedo da ragazzi di 20 anni confrontandomi con i miei amici coetanei è che il mondo va in un'altra direzione, cioè in un'Europa che, come ci dicono, dovrebbe diventare più unita e che di fatto dovrebbe diventare un grosso paese in cui tutti potessero circolare con facilità, e anche creando appunto quello che, come ho scritto nella mail, un valore aggiunto, no? Ovvero un ragazzo che magari sotto ha fatto il liceo in Italia, però poi ha fatto l'università all'estero, in Inghilterra, e poi ha fatto un dottorato in Germania. Quindi l'Europa l'ha vissuta perché l'ha vista fin da giovane, e non perché l'ha vista per la prima volta magari a 25-26 anni. Simone, quanti soldi hai raccolto fino ad ora? Fino adesso su 3.000 ne ho raccolti 2.365. Perfetto. Hai dovuto fare già molte cene? Ce ne la facciamo alla fine, facciamo una per tutti. Sì, forse è meglio. Va bene. In bocca al lupo, facci sapere come va a finire questa bella avventura. Grazie davvero, Simone. Sì, grazie. Ciao. A voi. Grazie. Ciao, buon mille. Sabato. Adesso un euro post-it. Le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Tirocinio al Comitato Economico e Sociale a Bruxelles. Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un organo consultivo dell'Unione Europea, in forma di assemblea composta dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dai sindacati dei lavoratori e da altri rappresentanti. Ha sede a Bruxelles e offre a studenti laureandi e da poco laureati la possibilità di candidarsi per differenti stage e tirocini. La durata è variabile da 5 a 3 mesi. Per candidarsi alla sessione di traineeship più lunga, che partirà in primavera, è necessario sottoporre la propria candidatura entro il 30 settembre. Ci sarà anche una seconda sessione per cominciare poi il tirocinio nell'inverno 2015. Per gli stage più brevi di 3 mesi non c'è nessuna deadline e le application possono essere inviate tutto l'anno. Per trovare più informazioni andate sul sito del Comitato Economico e Sociale eesc.europa.eu nella sezione Lavoro e poi cliccate Traineeships. L'altra Europa. Sì. Since the dawn of time, there has been movement. Mankind has learned from it. This movement has inspired us to explore, to dare, to build, and to share. It's an endless movement that accelerated 3 centuries ago when science and entrepreneurship met. In Europe, machines began to beat to a rhythm. L'industria europea, il battito del cuore europeo, questo è quello che dice un audio, questo audio preso dal canale YouTube della Direzione Generale per le Imprese e l'Industria della Commissione Europea, l'industria come cuore, l'industria come motore, l'industria come sviluppo, come opportunità, come occasione, come posti di lavoro e di industria. Ne parliamo ora perché abbiamo il piacere di ospitare il neocommissario per l'industria, Ferdinando Nelli Feroci. Buongiorno Nelli Feroci, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Credo sia un periodo intenso. Lei ha una lunga esperienza a livello europeo, però questo ruolo le mancava. Questo ruolo è nuovo perché finora io ho lavorato dall'altra parte di Ulisse Laluace, in consiglio come rappresentante del governo italiano. Ora mi considero dalla parte della Commissione, l'istituzione sovranazionale, con delle competenze che sono effettivamente nuove per me, quelle dell'industria, della competitività e dell'impresa. E con che spirito ci si avvicina a un ruolo di questo tipo, sapendo anche che è un ruolo per qualche mese, che è anche la caratteristica di questa poltrona ad interim, perché così è, diciamo, adesso non so bene quale sia la giusta definizione, com'è? Io sono stato designato dal governo italiano come commissario in sostituzione del vicepresidente Tajani, che aveva assegnato le dimissioni perché eletto al Parlamento europeo. Certo. Ed è chiarissimo, diciamo, che il mio mandato è un mandato che durerà fino alla durata del mandato dell'attuale commissione. Questo erano i termini chiari della mia designazione, non ci sono dubbi sotto questo profilo, insomma. Questo non significa che non abbia affrontato questo incarico con tutto l'entusiasmo e con tutta la curiosità anche che si addice per un incarico importante, prestigioso e di grande responsabilità come quello di un membro della Commissione. Assolutamente. Dove non si fa ordinaria amministrazione, perché i temi sono sul piatto, sono tantissimi e per fortuna l'Europa cammina. 4 sono i pilastri che lei ha sottolineato per la rinascita: completare il mercato interno, facilitare l'accesso al credito per le imprese europee, sostegno all'innovazione e ridurre gli oneri amministrativi. E poi un quinto pilastro, credo un quinto ingrediente, che però è anche quello fondamentale, che è l'attenzione a quella che è l'economia reale. Qual è? Che cos'è l'economia reale oggi in Europa? L'attenzione all'economia reale è un dato che si è imposto, se vuole, come conseguenza del fatto che per molti anni, troppi anni, ci si è quasi ossessivamente ed esclusivamente occupati di finanza e di debito pubblico. Sì. Sono state adottate delle misure che erano necessarie e che hanno contribuito a stabilizzare l'Eurozona, lo sappiamo tutti. Queste misure purtroppo hanno avuto un impatto sull'economia reale, hanno avuto un impatto sui posti di lavoro che si sono persi, sulle imprese, le industrie che hanno dovuto chiudere. E la novità che io ho trovato tornando a Bruxelles è un'attenzione nuova e diversa ai temi dell'economia reale, all'obiettivo di una reindustrializzazione dell'Europa. Questo nasce, diciamo, con una comunicazione della Commissione del gennaio scorso, ma soprattutto è un obiettivo che viene fatto proprio dal Consiglio europeo nel marzo scorso, ed è questo un po' il mio programma di lavoro. Un passaggio anche che mi ha colpito particolarmente è quello riguardante l'accesso alle risorse, dove lei fa l'esempio di Horizon 2020, per esempio. Questo forse è per sottolineare che le risorse ci sono, il problema è che le persone, le aziende, le industrie non lo sanno, non ci sanno accedere, non c'è un'attenzione, una cultura dell'andare a pescare questi fondi? Questo è un dato che riguarda soprattutto l'Italia. Noi abbiamo in particolare alcune linee di finanziamento, quelle che in gergo si chiamano come non preallocate, dove si deve accedere su base competitiva, e vale soprattutto per il settore della ricerca, e ora con il programma Horizon 2020 e la ricerca applicata all'innovazione un tasso di partecipazione italiana ai finanziamenti europei che è molto più basso del tasso di partecipazione dell'Italia al bilancio dell'Unione Europea. Quindi occorre fare anche uno sforzo per rendere più accessibili questi fondi al sistema delle imprese e delle istituzioni italiane in generale. Qual è la definizione, qual è l'immagine di una dell'industria smart, che dovrebbe essere questa industria più agile, più capace di muoversi nel panorama della competitività globale? L'industria smart oggi è un termine che utilizziamo soprattutto per segnalare quei processi produttivi innovativi, si chiama anche manifatturiero avanzato sotto certi profili, che utilizzano tecnologie di punta che rendono l'industria stessa più competitiva, più in grado di innovare, più in grado di proiettarsi su mercati internazionali. L'Unione aiuta attraverso fondi, soprattutto sono quelli di Horizon, ma non soltanto quelli di Horizon, certo, a fare innovazione e a trasformare la ricerca in innovazione, cioè a colmare il gap che purtroppo esiste, è esistito per molti anni, tra la ricerca pura e la ricerca applicata ai processi produttivi. Ed è questa la chiave, diciamo, per il rilancio dell'industria in Europa. Uh-huh. Nelly Feroci, lei è fortemente ancorata, cioè, l'abbiamo capito anche dalle sue parole, a quella che è la realtà. Ce lo confessi? C'è comunque un po' di ottimismo? Se dovessi leggere attentamente i dati dei giornali di questi giorni, parlare di ottimismo parrebbe strano. Sì. Però io credo invece che ci debba essere ottimismo per un motivo molto semplice. Da un lato abbiamo stabilizzato il quadro delle finanze pubbliche e, diciamo, la nostra moneta comune oggi non soffre di rischi evidenti o particolari. Abbiamo recuperato la sostenibilità, in particolare dei paesi più a rischio come l'Italia, del debito pubblico, con una riduzione sostanziale dei tassi di interesse sui titoli sovrani. Abbiamo un apparato produttivo, e questo vale in generale in Europa, ma vale anche in Italia, che è sano, che è ricco di potenzialità. Si tratta semplicemente di ricreare le condizioni perché l'economia si rimetta in moto. E questo è quello che sta facendo l'Europa, nel senso di non può fare miracoli, certo, non dispone di risorse proprie per finanziare in proprio programmi massicci di investimento, ma può contribuire a creare un clima business friendly. Mm-hmm. Ed è questa un po' l'azione su cui si concentrerà il mio mandato in questi mesi: operare perché dall'Europa arrivino indicazioni chiare su quali sono le condizioni di contesto per rilanciare l'economia e l'industria. Grazie davvero a Ferdinando Nelly Feroci, commissario per l'industria. Buon lavoro, Nelly Feroci, saranno 4 mesi curiosi, prenderei questo tra gli aggettivi che ha utilizzato in questa intervista, perché credo che la curiosità sia un motore, sia un incentivo, sia uno stimolo bello e davvero produttivo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Europost-it. Concorso per traduttori. L'EPSO, European Personnel Selection Office, ha aperto un nuovo concorso per selezionare traduttori per le istituzioni dell'Unione Europea. In particolare si cercano traduttori di tedesco, spagnolo, greco e svedese. Per partecipare è necessario avere un diploma di laurea e conoscere perfettamente una delle 4 lingue per cui si partecipa al concorso, più 2 altre lingue diverse tra inglese, francese o tedesco. Il concorso per esami servirà a creare elenchi per coprire i posti vacanti di funzionario e i candidati che supereranno le selezioni con successo e verranno chiamati potranno lavorare con un contratto da amministratore con una retribuzione base molto buona. Per partecipare e conoscere tutte le possibilità lavorative andate sul sito ufficiale dell'EPSO europa.eu/EPSO. Se avete qualche problema nel mandare la candidatura c'è anche un punto di contatto per i candidati che possono mandare le proprie domande online oppure chiamare un numero di assistenza. Кабинетът много отдавна е готов да подаде оставка. Единственото, което спира оставката, е необходимостта подаването на оставка и всички процеси след това да бъдат управлявани и да гарантират стабилността. Всичко е ясно. Това е въпрос, който единствено и само премиерът може... E torniamo nell'Europa reale, nell'Europa dove le singole nazioni giustamente hanno la propria vita, le singole nazioni hanno le proprie identità. Andiamo in un piccolo spazio d'Europa, se ne parla pochissimo di Bulgaria, è una delle nazioni anche forse meno note, meno conosciute. Quello che state ascoltando è un estratto di un telegiornale bulgaro di questi giorni che sta raccontando la situazione politica. Si è appena dimesso il governo dopo mesi di crisi che è stata anche accentuata dalle elezioni europee, ma sempre in Bulgaria in questi giorni è stata presentata una barriera tecnica sul confine bulgaro-turco, un muro, un nuovo muro lì nel cuore d'Europa. Di tutto questo ne parliamo con Francesco Martino, corrispondente di Osservatori Balcani e Caucaso da Sofia, balcanicaucaso.org. Come sempre vi invito ad andare a vedere questo bel portale, lì potete leggere anche in diretta il reportage di Francesco Martino che è qua con noi. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a te e a tutti quelli che sono in ascolto. Allora partiamo dalla stretta attualità, cosa sta succedendo in Bulgaria in queste ore? Sì, questa settimana il governo di centrosinistra, guidato da Plamen Oresharski, ha presentato le sue dimissioni e credo che si possano inserire queste dimissioni in un contesto più ampio di fortissima instabilità politica che in qualche modo ha colpito la Bulgaria fin dall'inverno del 2012. Allora il governo di centrodestra fu costretto a dimettersi quando ci furono forti proteste di piazza dovute a bollette elettriche impazzite, dimissioni che allora portarono a nuove elezioni anticipate che però hanno lasciato il paese in una situazione particolarmente instabile. Fu formato nel maggio del 2013 un governo di centrosinistra, quello che appunto alcuni giorni fa ha dato le dimissioni. Un governo che però direi ha avuto molta poca fortuna, un governo che appunto molto debole in Parlamento, è stato evidentemente legato da forte da legami in realtà mai ben chiariti con i circoli oligarchici che in Bulgaria fondamentalmente controllano i legami tra politica, economia ed informazione. Proprio questi legami e le nomine scandalose che sono state fatte immediatamente dopo la formazione hanno portato la Bulgaria a quelle che possiamo definire le proteste più sentite da quando il paese è diventata una democrazia dopo il crollo del muro nel 1989. Certo. Proteste che sono andate avanti per mesi e che quindi hanno messo ancora più sotto stress l'intero sistema politico bulgaro. Il governo ha provato a resistere fino alle elezioni europee del maggio di quest'anno, quando è stato nuovamente sconfitto. A quel punto fondamentalmente questa fragile alleanza di centrosinistra è andata a picco e il risultato naturale di questa crisi sono state le dimissioni che sono arrivate nei giorni scorsi. Adesso si andrà a nuove elezioni anticipate, rimangono grossi dubbi però che in qualche modo questo nuovo ricorso alle urne possa risolvere la situazione. Esatto. Visto che fondamentalmente i player, i giocatori sono gli stessi. Nella scena politica sono sempre gli stessi, quindi okay. Vedremo che cosa succederà, ma mi sembra che il bassissimo grado di fiducia degli elettori bulgari nei confronti dei propri politici la dica molto lunga. Francesco, ti chiedo un minuto di pazienza, la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te per conoscere da vicino appunto il significato di questa barriera tecnica sul confine bulgaro-turco. Barriera tecnica, un nome elegante per definire un muro. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Euronet Plus R24 oppure il mio account personale @FedericoTaddia per trovarci anche su Twitter e anche su Facebook, radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare e scaricare poi la puntata. Siamo in collegamento con Francesco Martino da Sofia, lui è corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso, ha appena fatto un ottimo video reportage che potete vedere su balcanecaucaso.org, su questa barriera tecnica costruita sul confine bulgaro-turco, 30 km di rete e filo spinato che dovrebbero contenere il flusso di rifugiati richiedenti asilo che dall'estate scorsa ha messo in crisi le capacità di reazione e anche di accoglienza forse della Bulgaria. Che cos'è questa barriera tecnica, Francesco? Sì, appunto, come dicevi anche tu, barriera tecnica è il termine burocratese. Neofemismo. Dopo averla vista da vicino, io direi che si può parlare tranquillamente di muro. Si tratta di una rete di circa 3 metri d'altezza coperta di filo spinato, quindi barriera tecnica, appunto, un po' il termine per indorare la pillola. Questo è stato, come posso dire, questa decisione è stata la conseguenza di quanto è successo l'anno scorso, quando c'è per la prima volta nella sua storia recente la Bulgaria ha subito in qualche modo l'arrivo di un numero importante di richiedenti asilo. Ricordiamo che dal 2007, da quando la Bulgaria è entrata ufficialmente a far parte dell'Unione Europea, il confine tra Bulgaria e Turchia, che è quello dove appunto è stata costruita questa barriera tecnica o muro, rappresenta anche il confine esterno dell'Unione Europea. Sì. Quindi fondamentalmente l'anno scorso un numero importante di richiedenti asilo, soprattutto in fuga dalla guerra civile siriana, è arrivata in Bulgaria tentando appunto di utilizzarla come primo passo verso i paesi più ricchi dell'Unione, soprattutto la maggior parte dei richiedenti asilo puntavano alla Germania oppure alla Svezia. E questo arrivo fondamentalmente ha messo in crisi le capacità di reazione della Bulgaria, che prima ha schierato circa 1 migliaio di poliziotti al confine per fermare questo flusso e poi ha deciso di costruire questo muro imitando quanto già fatto dalla Grecia nel 2012. Anche la Grecia al confine con la Turchia ha costruito una struttura simile. Francesco, scusa, nel fare questo tuo reportage hai raccolto anche quelle che sono le impressioni, le paure forse anche delle persone, e qual è il polso a ridosso di questa barriera? Ma io direi che i cittadini bulgari che vivono una situazione personale molto difficile, che possiamo ricollegare anche alle ripetute crisi politiche di cui parlavamo precedentemente, fondamentalmente si sentono deboli, si sentono in pericolo, visto che la Bulgaria rimane, dati alla mano, il paese più povero dell'Unione Europea. Sì. E quindi in qualche modo temono che l'arrivo dei rifugiati richiedenti asilo vada a pesare ancora di più su una situazione locale già molto stressata. Quindi in qualche modo c'è questa speranza che opere del genere possano limitare i danni. C'è al tempo stesso anche una richiesta molto evidente di maggiore solidarietà nei confronti dei paesi ricchi dell'Unione Europea. Anche il governo bulgaro ha ripetuto più volte che queste persone non vengono in Bulgaria per restare in Bulgaria, quindi ci sarebbe bisogno di una politica europea complessiva, in qualche modo più armonica e più più armonica tra, certo, tra i vari stati membri. Sì, soprattutto per quelle che sono le porte d'ingresso, i paesi di confine. balcanecaucaso.org/media/gallerie per vedere questo reportage. Un grazie davvero a Francesco Martino da Sofia. Ci ritroveremo sicuramente prossimamente qui all'Altra Europa. Ciao Francesco e complimenti per il bel lavoro. Ciao. Europost-it. Campi di volontariato nei Balcani. L'Associazione di Promozione Sociale Lunaria, grazie alla sua partnership con l'Alliance of European Voluntary Service Organizations, network di organizzazioni che promuovono il volontariato internazionale di breve termine, sostiene più di 1.800 progetti di campi di volontariato in tutti i continenti. Sono diverse anche le possibilità di partecipare a campi di volontariato nei Balcani, che danno la possibilità di far parte attivamente di progetti utili per le comunità locali, facendo una grande esperienza di convivenza, dialogo e collaborazione. Sul sito dell'associazione si trova un vademecum per scegliere il campo più adatto all'esperienza che si vuole fare, un database di tutte le possibilità e molte altre informazioni utili. Fateci un giro, lunaria.org. In questi anni tutti i mali, tutte le fatiche, tutte le conseguenze della crisi, molte volte le abbiamo raccontate attraverso la Grecia, una delle nazioni che più ha subito la crisi europea. Tante volte però in questi anni siamo andati in Grecia per raccontarvi quanto la crisi fosse stata poi un motore per nuove creatività, per nuove risposte, per un risveglio anche di quella che era la voglia di buttarsi di tanti giovani che si sono rimessi in gioco trovando anche soluzioni reali, soluzioni imprenditoriali per rispondere a quella crisi. E continuiamo a farlo oggi, lo facciamo grazie a un bel reportage che è stato pubblicato in parte sulle pagine online di Pagina 99, pagina99.it. L'intero reportage sarà poi nell'edizione cartacea in edicola nel weekend, per raccontare un pezzo di Grecia che ha scelto di cavarsela da sola. Diamo il benvenuto a Daniele Bellocchio, giornalista freelance e autore di questo bel lavoro. Ciao Daniele. Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu solitamente ti occupi di questioni africane, sei esatto. Anche autore di un bel ebook per Mondadori, Viaggio al centro della guerra. Questa volta invece la tua attenzione, la tua curiosità, la tua voglia di conoscere e scoprire ti ha portato verso la Grecia. Come mai? È stato un po' un cambio di rotta questo. Sono andato verso la Grecia perché c'era questa storia di Exarchia, questo quartiere che è un quartiere che va contro tendenza, quindi diciamo che quello che mi attirava era il conoscere questa storia contro tendenza, che andasse un po' contro a quelli che sono i pregiudizi confezionati, le stigmatizzazioni che vogliono associare sempre Grecia alla parola crisi, dramma, tragedia. E invece leggendo ho scoperto la storia di Exarchia, questo quartiere una fortissima tradizione storica, anche politica. Da lui c'era un quartiere in cui c'erano state le manifestazioni contro il regime dei colonnelli, e che adesso invece è riuscito, proprio facendosi forte di questa cultura, definiamola anche barricadera, sempre un po' anti-autoritaria, a creare delle alternative, delle politiche economiche e sociali che riuscissero a dare una risposta concreta al problema della recessione economica, che in Grecia sta continuando a essere davvero molto forte e costituire un dramma reale, concreto. Certo, è un quartiere di Atene particolare, un quartiere universitario, un quartiere con molti giovani, un quartiere noto per una sorta di propria indipendenza. Lì però, appunto, quali realtà hai trovato di risposta alla crisi? Guarda, è proprio un microcosmo, no? Questo quartiere nel centro di Atene, vicino a Piazza Omonia, quindi stiamo parlando proprio del centro di Atene, e come ci si addentra si scopre davvero quasi un altro mondo, sia da un punto di vista fisico, visivo, no? Da tutte le percezioni sensoriali sono travolte da Exarchia, da questi murales ovunque. E poi si inizia a conoscere, a penetrare dentro, e si vede come il quartiere risponda in ogni suo singolo aspetto alla recessione. Un esempio sono le mense solidali, che nascono dentro gli centri sociali, dentro i centri di accoglienza degli immigrati, mense con dei menù che vanno da 1 a 3 euro, perché naturalmente quello che spiega chi ha dato vita a queste mense è che in un momento di crisi bisogna, una delle priorità è sempre il pane, quindi dando facendo questi menù a prezzi ridottissimi si riesce a poter garantire un pasto al giorno alle persone. E questo è un aspetto. Un altro aspetto è quello dei negozi come Scoros, che è un piccolo negozio dove tutto funziona senza soldi. Era nato ancora prima che ci fosse la crisi, questo rispecchia, dà maggior valore alla tradizione proprio un po' ribelle che ha questo quartiere, perché cosa ha deciso di fare? Di creare un posto che andasse contro il consumismo sfrenato, dove tutto funziona cambiando oppure prendendo ciò che è necessario. Poi naturalmente con la recessione ha assunto dei caratteri, dei connotati maggiormente filantropici, però adesso è un locale in cui ogni 3 ore c'è un via vai di 50 persone, che quindi sta aiutando molto le persone in questa situazione. Un altro esempio sono i mercati dei produttori che vendono senza intermediari, i cosiddetti mercati a chilometro zero, una realtà molto forte, molto potente in Exarchia. E a tutto questo si aggiunge anche un fortissimo fermento e attivismo culturale. Daniele, guarda, ti fermo un attimo intanto, pagina99.it, ricordo per avere un assaggio di questo reportage online, e ti fermo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da te anche per conoscere invece questi ambulatori, come tu hai definito, ambulatori in trincea per la sanità autogestita. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, sempre con Daniele Bellocchio, che ha raccontato questo pezzo di Atene, ambulatori per la sanità autogestita. Daniele, cosa sono e funzionano soprattutto? Allora, questi ambulatori naturalmente sono uno degli aspetti anche più interessanti, perché toccano direttamente uno dei maggiori problemi che la crisi ha portato in Grecia, ovvero un crollo del sistema sanitario greco. Oggi c'è l'Associazione Medici del Mondo che dice ci sono 3 milioni di greci senza copertura sanitaria, e il ministro della sanità Adionis Georgiadis ha dichiarato ce ne sono 2 milioni, 2 milioni e mezzo, ad ogni modo comunque vediamo che il numero è elevatissimo. Quindi sono nati questi ambulatori, questi liberi, nel senso che danno assistenza sanitaria e distribuzione anche di farmaci gratuitamente e a tutti. Come sono nati? In modo diverso. Per esempio, nell'articolo ne ho presi in esame 2. Uno è una clinica nata da alcuni membri legati al partito di Tsipras, legati a Syriza. Sì. Il partito dà un contributo del 10%, piuttosto ridotto, però all'interno di questa clinica lavorano da 40 medici volontari specializzati, quindi dai radiologi, patologi, e loro lavorano alternandosi tutto il giorno in modo tale che si possano avere in queste piccole cliniche. Questa per esempio è un piccolissimo appartamento all'interno di un condominio, per dare l'idea proprio anche fisica dello spazio del luogo, e accoglie 3.500 persone che tutto il giorno vengono facendo, e ci sono interventi di primo soccorso, visite specializzate, c'è anche un dispensario farmaceutico, tutto questo in modo gratuito. L'altra clinica presa in esame si basa sostanzialmente sullo stesso principio, sanità medica gratuita per tutti, però in questo caso non si ha un partito dietro come Syriza, ma è nata all'interno di un centro sociale, che è il centro sociale K-Box, proprio nel cuore di Exarchia, proprio in piazza Exarchia, dentro uno spazio occupato. E anche qua sono stati predisposti alcuni locali a clinica e ambulatorio, e il principio è appunto lo stesso: visite specialistiche, primo soccorso e assistenza sanitaria. Daniele, ma un'ultima domanda: sono iniziative che possono varcare i confini di Exarchia, nel senso possono comunque muovere nuove forme di assistenza, e non solo, anche al di là di questo quartiere? Io credo di sì, e credo anzi che già al di fuori di Exarchia alcuni esperimenti di questo tipo stiano prendendo vita e stiano iniziando a nascere anche al di fuori di Exarchia. Naturalmente in Exarchia è un po' una roccaforte. Ecco, io adesso non vorrei che, avendo fatto tutto questo discorso, far apparire Exarchia un po' come un'eterotopia, una dimora dell'idea. Ha anche i suoi problemi. La bellezza anche nell'aver visto i problemi di Exarchia, uno tra questi è lo spaccio di droga, perché essendo un quartiere in cui le autorità e la polizia faticano e preferiscono non entrare, anche per dei motivi, delle ragioni di retaggi storici, la criminalità organizzata ha cercato di mettere un po' radici e quindi vendere droga, da che la marijuana, hashish, la nuova droga della crisi, la Sisa. Però anche in questa problematicità la cosa benevola, bella che si riscontra è come il quartiere abbia reagito, facendo quindi anche delle assemblee pubbliche, delle ronde con tutti i cittadini, dai giovani, gli anziani, quindi vedere come ci sia questo senso di collettività ovunque, sia nel bene ma anche nel male, ovvero dove ci sono le problematicità, nell'affrontarle in modo condiviso. Daniele Bellocchio, pagina99.it, grazie davvero Daniele, complimenti, alla prossima. Grazie a te Federico, grazie mille, buongiorno a tutti. Ciao. Europost-it. Concorso di Storyboard per la tessera europea di assicurazione malattia. La tessera europea di assicurazione malattia è la tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 stati. Si trova solitamente sul retro delle vostre tessere sanitarie e vi assicura una permanenza serena in tutti i paesi dell'Unione, anche in caso di malattia. Per spiegare di cosa si tratta, la DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione ha indetto un concorso per storyboard. Raccontate attraverso un breve scritto e uno storyboard la vostra esperienza, oppure trovate un modo simpatico per inserirla nella vostra storia. Potete vincere dai 500 ai 1500 euro e lo storyboard scelto verrà realizzato in un video. Volete provare? Andate su ec.europa.eu/social/eic_competition. Per partecipare avete tempo fino al 17 agosto. Kada je čovjek samo mladi lud i mijenja čud presto kad kaže hop. Kada je čovjek samo mladi lud, tad sluša rock i pop. Kada si samo malo stariji, ozbiljniji, kad život pravi rez. Kada si samo malo stariji, tad slušaš samo jazz. Sonorità balcaniche che ci accompagnano verso la Serbia, perché vogliamo raccontarvi anche cos'è l'estate europea, periodo dove tantissimi giovani scelgono di fare periodi di volontariato, e grazie anche ai tanti scambi proposti e finanziati dalla Commissione europea. www.scambieuropei.info, vi ricordiamo, un po' un punto di riferimento per avere tutte le informazioni. Con noi oggi c'è Marcello Raspa, giovane che sta partecipando al servizio volontariato europeo in Serbia. Ciao Marcello, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto dove ti trovi e cosa stai facendo? Allora, mi trovo precisamente a Sombor, che sarebbe un centro di 40.000 abitanti a nord della Serbia, e mi trovo in questo servizio di volontario europeo, che in pratica è un'opportunità che l'Unione Europea offre a tutti i giovani che hanno meno di 30 anni che possono partecipare una volta nella vita. Mm-hmm. E di cosa ti stai occupando? Allora, io ho avuto la fortuna di aderire in questo progetto con un'associazione che lavora con bambini e giovani, quindi diciamo che oltre ad avere dei compiti di ufficio, come gestione delle risorse all'interno dell'ufficio, lavoro anche con i giovani. L'associazione si occupa di fornire servizi come le ripetizioni oppure dei corsi di teatro, di inglese ai bambini e ai ragazzi. Io nel frattempo, dato che sono anche musicista, porto avanti questo progetto che insegno musica ai bambini e insegno chitarra ai ragazzi. Quanti anni hai tu, Marcello? Ne ho 28. Uh-huh. Quindi ho preso questa opportunità abbastanza al limite. Tu tra l'altro sei ingegnere chimico, se non erro, quindi... Sì, esattamente. Però dopo un anno e mezzo di ricerca del lavoro, muovendomi anche piuttosto non solo nel mio paese d'origine ma anche nei dintorni, alla fine ho voluto fare questa esperienza che l'Unione Europea mi offriva, insomma. Sono partito da una esperienza più piccola, perché oltre al servizio di volontario europeo, sì, ci sono anche delle opportunità che sono degli scambi giovanili che durano, possono durare da una settimana a 10 giorni, e sempre mi sono ritrovato in Montenegro, e poi da lì, diciamo, mi sono innamorato della cultura balcanica e ho deciso di tornare per un periodo più lungo. Un periodo più lungo di quanto? Sono arrivato qui a maggio e starò per 9 mesi, quindi l'Italia la rivedrò a febbraio. Insomma, quindi un'esperienza personale importante. Marcello, che Europa stai respirando lì? Perché sei ai confini, sei in Serbia, sei in una zona particolare. Non ha ancora è candidata per entrare, certo, nell'Unione Europea, e quindi diciamo che si sta adattando. Mm-hmm. Però ovviamente ogni paese conserva la sua cultura e le proprie tradizioni, quindi diciamo mi sono immedesimato completamente in queste tradizioni, soprattutto perché questo è un paese che io definirei puramente multietnico, dato che fino a 150 anni fa c'era la dominazione turca ed è sempre stato influenzato dall'impero austro-ungarico, e quindi diciamo ci sono tutti i tipi di popolazione qui. Davvero è un mix che adoro, perché solitamente queste condizioni si trovano a seguito di guerre e situazioni spiacevoli che fino a 20 anni fa qui in Serbia, come sappiamo, tragica quotidianità, è certo. Sì, però comunque diciamo mi trovo in un clima dove la gente eccezionale mi ha accolto davvero come un figlio serbo, quindi mi trovo molto molto bene. E che musica insegni ai bambini serbi? Allora, cerco di portare avanti un programma dove cerco di includere un po' tutto, dal gioco alla musica, al ritmo, al canto, e spero di farli suonare anche un po' uno strumento, perché vorrei anche avvicinarli alla cultura rock e metal, dato che ho una band che suona questo genere e quindi cerco anche di influenzare. Insomma, Marcello, chiudiamo con uno spot che forse tu puoi realizzare così live. Perché fare un'esperienza come la tua? Perché un giovane, un tuo coetaneo, dovrebbe dedicare una parte della propria vita, qualche mese, nel tuo caso ne hai scelti 9, tanti, però si possono fare anche esperienze più corte, per respirare Europa? Dai 2 ai 12 mesi. Perché? Perché? Qual è veramente uno slogan? Qual è il cuore di tutto questo? Beh, perché sicuramente è un'esperienza che ti cambia, che ti può aprire la mente a nuovi confini che tante volte una persona nemmeno si rende conto di cosa li può aspettare, ed è questa esperienza ti arricchisce e te la porti avanti per tutta la vita. E sicuramente tutto questo poi potrà aiutare o perlomeno mi sono incartato. Ma va bene, però, però un'esperienza emozionante. Chiudiamo così, con l'emozione, direi che mi sembra la cosa migliore. Grazie davvero Marcello, complimenti, buon lavoro, ciao. Scambioeuropei.info per tutte le informazioni. Termina qua, mi sono emozionato anch'io, questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, Margherita, Ina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Lorenzo Nespoli oggi in assistenza, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Radio24.it per riascoltare la puntata, oppure i nostri account su Facebook e Twitter. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.